Ben ritrovati su Pink Moon. Quest'oggi siamo sempre al Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria. Avrò come ospite il dottore Eugenio Celebre, che ha tenuto delle conversazioni qui al museo. Conversazioni che principalmente vertevano sul periodo inglese, sull'Inghilterra e sul periodo che dagli anni 60 ha iniziato a assorbire un bel po' di cultura americana e a risputarla fuori in maniere molto, molto creative, come vedremo quest'oggi. Intanto buonasera. Buonasera a tutti quanti, Eugenio Celebre, vi racconterò un po' i miei ricordi di quel periodo che io ho vissuto in prima persona, vista la mia vetusta età. Infatti prima stavamo dicendo che mi ero perso io i gong a Roma quest'estate al Circo degli Artisti, ovviamente mi hanno detto sì, saranno stati i loro nonni, perché... Però ovviamente noi possiamo solamente apprendere. Infatti io quest'oggi farò il presentatore e basta quasi. Poi lascerò spazio al dottore che ci parlerà principalmente di una figura che io, devo dire la verità, devo essere sincero, non conoscevo. Tale Alexis Korner, soprattutto attivo ovviamente in Inghilterra soprattutto i primi anni del 60, subito nel 61, e molti ricordano soprattutto John Mayall come colui il quale diede il là poi al rimasticamento del blues degli americani da parte dei bianchi. Invece il primo complesso di bianchi blues fu proprio a firma Alexis Korner. Alexis Korner, con la sua formazione Blues Incorporated, è antecedente, addirittura parliamo dei primi eventi in Inghilterra nel 1960-61. Tra l'altro diciamo anche un qualcosa sulla sua origine, sulle sue origini. Nato da padre austriaco, madre greca, è nato a Parigi e trasferito a Londra. Cioè, credo che sia una sintesi di tutta la cultura europea, no? Non poteva che essere così, perché lui in pratica fece veramente la sintesi di queste musiche e se ne venne fuori appunto con quello che state anche ascoltando di sottofondo. Sì, questo è il pezzo che ci accompagnerà, anche magari qualche altro pezzo, però loro sono Dave Graham e Alexis Korner, appunto. Io direi all'inizio di poter magari passare il primo pezzo, proprio questa improvvisazione, questo fraseggio a due tra Dave Graham e Alexis Korner, e ci rivediamo dopo. Thank you. woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make you pretty women's all jump and shout, and the world gonna know. Too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I want all you girls. Take me by my hand. The world gonna know. Seven doctors say I was born for good luck, and that you'll see. Got $700. Don't you mess with me. Era Uchi Kuchi Man con Long John Baldry alla voce, colui che lanciò Elton John. Esattamente. Altri ricordiamo anche Cyril Davis, voce armonica, ovviamente Alexis Scholar alla chitarra acustica. Allora erano chitarre acustiche, venivano amplificate sostanzialmente con il microfono. Poi abbiamo Dick Hexa Smith, sax tenore, e poi fu uno dei leader dei Colossium, ma questa è tutta un'altra storia che affronteremo più avanti. E vabbè, e poi diciamo Keith Scott al pianoforte. E chitarre acustiche, non esistevano chitarre amplificate? No, esistevano perché avevamo già dei Gibson, però questa tipologia di suono si otteneva proprio con una chitarra con la cassa molto grossa. Il fatto che poi ovviamente Cyril Davis fu fra i fondatori appunto della Blues Incorporated, poi fece in modo che anche altre figure che poi di lì a poco saranno state fondamentali si avvicinassero a questa scuola, per così dire. Io ricordo anche Eric Burdon degli Animals, era una sorta di, come dire, di crescita. Era un divario, che non credo che nel panorama musicale americano di quegli anni ci fosse qualcuno che non gravitasse intorno a questo scorrere. Anche perché ovviamente il blues arrivava dall'America, e farne una rilettura in maniera scolastica era una cosa molto facile, però sappiamo bene che non era questo solamente l'intento, no, di Alexis Corner e poi di John Mayer. No, non era questo. Io qui vorrei sottolineare un paio di idee sui motivi per cui questo fenomeno fu, diciamo, per cui l'Inghilterra divenne la testa di ponte del blues in Europa, perché poi da lì si discute un po' in tutta Europa. secondo un critico, un caro amico Enzo Cav, l'Inghilterra fu la testa di ponte soprattutto in prima battuta per il problema della lingua. Non erano certi i giorni nostri in cui l'inglese era così diffuso, quindi il fenomeno mediatico allora era il rock and roll, lanciato intorno al 1954-55. Dopo quei 4-5 anni di diffusione, ecco che il rock and roll arriva in Inghilterra, arriva compreso nella lingua, e poi il rock and roll in forza. Diciamo che prima c'è stata una bella ondata emotiva con Elvis Presley, che ha fatto, diciamo, impazzire tutti quanti. Poi, come io uso sottolineare, anche per generi molto diversi come ad esempio la techno e altre derivazioni musicali, quando i generi arrivano in Inghilterra prendono molto della cultura, e non solo musicalmente parlando, soprattutto riferendomi, vabbè, anche alla techno, alla cultura, poi da club per parlare dell'elettronica, derivando da Chicago e da Detroit, dalla house e dalla techno, gli inglesi hanno saputo prendere e costruire poi una cultura totalmente autonoma, così come abbiamo visto Alexis Corner e John Mayall con il blues degli americani. Quindi io credo che l'Inghilterra, anche se poi andiamo a vedere tutte le grandi formazioni, la metà penso si possa dire tranquillamente che possano essere inglesi. E l'Inghilterra, sì, come fucina di cultura, ecco. Direi adesso di ascoltare sempre Rhythm and Blues for the Marky, di ascoltare I Wanna Be the Tiger in Your Tent. Ok. Che ricorda un brano molto famoso, tra l'altro, un brano che cantava spesso Ray Charles. Ok, allora questa è I Wanna Put You a Tiger in Your Tent. Thank you. siamo ritornati dopo questo pezzo sempre a firma Alexis Corner. Il prossimo ha una formazione, diciamo, tutt'altro che modesta. L'album è Blues Incorporated del 1964, che si denota già per i primi accenni ad una virata verso il jazz strumentale. Addirittura Alexis Corner fu poi un pochino accusato dai musicisti più blues o più rock che si maturavano di avvicinarsi troppo al jazz. E quindi lo abbandonarono tradendolo con John Mayer. In particolare in quest'album dobbiamo ricordare, oltre ai soliti Cyril Davis e Dick Hextall-Smith, Graham Bond al sax alto, Jack Bruce al basso, Charlie Watts al batteria e Charlie Watts Charlie Watts batterista. E allora probabilmente si alterna con Ginger Baker, okay. Che sono tutte e due batterie. Avevano anche la panchina. Una panchina. No, è che in realtà le formazioni cambiano sì, tra i vari. Proprio il fatto che venissero considerati una sorta di delle sorte di turnisti, poteva anche dare vita a intrecci inaspettati, quindi batterista dei Rolling Stone e batterista dei futuri Cream, quindi una formazione incredibile certamente. E questo pezzo però ricorda un tema ben più famoso di Thelonious Monk. Sì, è il brano che si chiama Blooming, in realtà ha una non progressione, sappiamo se sia un riferimento, potrebbe essere anche un gioco di parole, ricorda una progressione di un brano misterioso, un brano di Thelonious Monk. Allora questa è Blooming. Thank you. Siamo tornati dopo Blue Mink. Il prossimo pezzo è un sempre a firma Alexis Corner. È un pezzo con delle influenze già molto jazz, perché poi, come abbiamo detto, Alexis Corner mira verso il jazz e abbandona il blues degli esordi. Stavamo parlando prima della presenza dei fiati, appunto, sia in questo pezzo ma anche nel background musicale di Alexis Corner. È una presenza che crescerà sempre di più. Addirittura nel prossimo brano che manderemo, gli arrangiamenti sono arrangiamenti tipicamente orchestrali con le sezioni di fiati, quindi qualcosa già di molto maturo dal punto di vista jazzistico. Questo è legato anche al background culturale di provenienza di Alexis Corner, che proveniva anche da formazioni molto ampie, formazioni orchestrali, che gli avevano dato questo imprinting musicale. Il pezzo, sì, appunto, è Rainy Tuesday. siamo ritornati dopo Rainy Tuesday. All'inizio abbiamo detto che di Alexis Corner non si trovi granché in merito a discografia e incisioni, però forse l'unico album del quale si può avere nota è Bootleg Him del 71. È una sorta di raccolta di tutti i pezzi che dal 61 fino magari alla fine degli anni 60 hanno caratterizzato appunto il sound di Alexis Corner. E ci sono alcuni nomi che io francamente non conosco, se sì, non forse quello più famoso. Alcuni nomi incredibili dei musicisti che suonarono appunto in quegli anni con Alexis Corner, come John Sarman, probabilmente il più grande tenor sassofonista e baritono inglese, grande compositore, grande jazzista, o il pianista Chris McGregor, anche lui grande compositore, soprattutto con arrangiamenti di sezioni all'inglese, che sarebbe interessante ma un giorno ascoltare. O il trombettista Kenny Wheeler, che è stato anche di recente qui a Reggio Calabria, ospite durante l'estate con delle sue performance. E addirittura in un brano che si chiama In Sunrise, che è in questa raccolta, c'è una orchestra con un gran numero di elementi. In contemporanea suonano 3 batteristi, una dozzina di fiati, 2 percussionisti, chitarra, basso, quindi c'è un'orchestra molto ampia. E c'è un nome che è molto famoso, oltre ai futuri Free, un gruppo progressive a poco avrebbe iniziato a suonare, un certo Robert Plant, che prestò la sua voce, ancora non famoso, un ragazzino sarà stato, di lì a poco avrebbe poi dato vita ai Led Zeppelin, a quel meraviglioso viaggio che hanno significato per l'hard rock. Andiamo a sentirci proprio da questo Bootleg Him un pezzo con Robert Plant alla voce. Yeah. Stavamo riflettendo sul fatto che Robert Plant dovesse avere, penso, 17 anni al massimo in questa performance, e la voce sembra essere proprio quella già poi dei famosi successi delle Zeppelin. E c'è una curiosità su Elton John, che ovviamente gravitava anche lui nell'universo Alexis Corner, ed è quella che voleva diventare cantante dei King Crimson. King Crimson è probabilmente una delle più importanti formazioni di progressive, che sarà anche detto nella cultura del Nordesco, e non riuscendovi tentò anche di diventare il cantante di Gentle Giant, altra importante formazione di progressive. E come tipo ovviamente di proposta, questa del bootleg in questo pezzo era ovviamente molto blues, poi anche i caratteri, che mi sembra Robert Plant all'armonica. Sì, era anche lui. Che poi ovviamente Robert Plant riprenderà nelle Zeppelin, e però dobbiamo dire che dopo questa parabola di blues, Alexis Corner continuò poi anche dopo gli anni 70, sì, ma anche se il periodo importante e fondamentale fu proprio quel decennio. Poi ovviamente continuò a gravitare, anche perché aveva le amicizie di tutti quanti, continuò a gravitare, ma con una minore importanza. E anche perché poi dal 65 ci fu un simpatico protagonista di nome John Mayall, che iniziò a reclutare veramente dei mostri accanto a sé, e ovviamente armonicista. John Mayall nasce come principalmente armonicista, però suonava anche l'organo Hammond e cantava, grande voce. Voce e armonica, questi diciamo sono i punti di riferimento musicali della sua performance. E ovviamente ebbe all'inizio un impatto un po' più ballereccio, per così dire, un po' più energico di Alexis Corner, e il primo singolo che poi andremo a sentire nella testimonianza era un sound molto molto blues, ma molto grezzo. Sì, in realtà divenne la cinghia di trasmissione fra il blues anni 50 e il blues rock anni 60, e anche lui continuò un po' nella vocazione di Alexis Corner, continuò ad allevare talenti che citeremo andando avanti negli ascolti. Il primo pezzo è appunto il primo singolo di John Mayall, è datato 1964 addirittura, ed è Crawling Up Hill. Slow train. questo era il primo singolo di John Mayall, Crawling Up a Hill, un sound molto molto cantabile, molto glamour, però nello stesso tempo sia acido che grezzo e quindi bello tosto. Diciamo che Mayall aveva un grande patrimonio di esperienza della banda del servizio militare, aveva suonato circa 3 anni durante la guerra di Corea con l'esercito britannico, e però a differenza di Alexis Korn, che restò sempre fortemente attaccato agli arrangiamenti con i fiati, lui invece preferiva fare camminare le chitarre, fare camminare la voce, quindi aveva certamente un suono più moderno. Il pezzo che segue è un pezzo con un chitarrista che non saprei come definire. È il chitarrista che tra l'altro ha scoperto Jimi Hendrix, però l'ha sentito suonare in un club di Londra. Io mi ricordo che stava fuori dal locale e sentì suonare dentro una chitarra all'impazzata, volumi allucinanti, e disse: ma quasi quasi entro a vedere chi è. Anche perché poi Eric Clapton, stiamo parlando di Eric Clapton, con i suoi Cream prenderà soprattutto l'impatto di John Mayall, prenderà i decibel, se vogliamo, e l'attitudine molto rumorosa che poi sarà il marchio di fabbrica appunto di tutto quell'hard rock che nascerà di lì a poco. Solo una piccola nota su Jimi Hendrix: in quegli anni a Londra si racconta, e ci sono dei filmati su YouTube che lo dimostrano, che 2 o 3 giorni dopo l'uscita di Sgt. Pepper's, nelle serate che lui faceva nel club suonava già orecchi i pezzi di Sgt. Pepper's, e ci sono dei filmati su YouTube che lo dimostrano, dei filmati di Hendrix, sì, di Hendrix che suona pezzi da Sgt. Pepper's a orecchio ma proprio una settimana dopo l'uscita del disco. Penso sia impazzito Hendrix quando ha ascoltato per la prima volta Sgt. Pepper's. Stiamo parlando del 67. I Cream già un anno prima erano usciti con, mi sembra, Fresh Cream, il primo album che poi avrà come seguiti due fra gli album leggendari della storia del rock. E in quanto proprio a impatto e a sonorità, penso che Hendrix abbia senza dubbio coltivato questa attitudine, l'abbia fatta esplodere poi. Però ovviamente Eric Clapton è una figura che, in quanto a sia tecnica chitarristica ma anche a impatto, come abbiamo detto, sulla scena musicale, è secondo a pochi. E noi qui lo ascoltiamo con ovviamente John Mayall e i Blues Breakers, che sono la formazione che fungeva da scuola, da allenamento per tutti questi musicisti. Esattamente. L'album è proprio John Mayall e Blues Breakers del 1966, etichetta Decca, e il brano che ascoltiamo è Stepping Out, un traditional di Freddie King. We'll be right back. sembra un esempio di chitarrismo improvvisato di Eric Clapton. E stavamo discutendo sul fatto che non era una semplice rilettura di assoli presi appunto sulla scala pentatonica classica del blues americano, ma erano delle vere e proprie improvvisazioni. Sì, questa era proprio una caratteristica abbastanza nuova. Normalmente i chitarristi in quegli anni tendevano a rifare gli assoli dei brani grosso modo sempre alla stessa maniera. Invece Eric Clapton improvvisava, li cambiava ogni volta. Questa era una grande novità. Ovviamente questa fu una novità che poi fu esasperata dai Cream. Perché i Cream, con la loro fondamentale caratteristica, avevano di riuscire a dilatare dei brani e le improvvisazioni facendoli durare un quarto d'ora. Delle maratone di ricordo brani come Spoonful e altri vecchi classici proprio riletti e allungati oltremodo. Tra l'altro in quegli anni, questa caratteristica di cui poi parleremo dei Cream cominciò a suscitare anche la gelosia di jazzisti del calibro di Miles Davis. Si prese l'invidia anche Miles Davis. E vabbè, Beaches Brew, stiamo parlando di che anni? Stiamo parlando poi di quegli anni proprio di quegli anni. Qualcuno disse che, sono tre leggende, che Beaches Brew poi fosse la risposta un po' più elettrica di Miles Davis a questa grande apertura all'improvvisazione della musica rock. Così, questo brano che abbiamo appena sentito era appunto Stepping Out. E il prossimo è un grande classico ed è All Your Love. Sempre a firma John Miles e i Blues Breakers. Thank you. era All Your Love, una specie di premessa di quello che poi soprattutto le Zeppelin avrebbero fatto appunto di lì a poco. L'album da cui ascoltiamo adesso qualche brano è John Mayall e Blues Breakers del 67, sempre per la Decca, probabilmente considerato il capolavoro del blues revival. E qui abbiamo un nuovo chitarrista, Peter Green, insieme tra l'altro alla batteria Ashley Dunbar, mitico batterista, poi con Frank Zappa. Il brano che adesso ascoltiamo per primo è The Supernatural, dove già cominciamo a cogliere i primi segni di grandi elementi di diserzione nella musica. Ok, questo è The Supernatural. Atmosfere molto psichedeliche. Poi ovviamente il marchio di fabbrica di Peter Green è quello che poi avrebbe avuto in Santana anche. Sì, è il suono di questa chitarra che poi fu ripreso e portato avanti per anni da Carlos Santana negli album appunto dei Santana. Quando più avanti parleremo del periodo specificamente del rock, mostreremo ancora anche queste analogie tra il percorso di Peter Green e il percorso di Santana. Ecco, sempre ovviamente parlando di questo pezzo, sempre con Peter Green, è Out of Reach, sempre dal 67, quell'anno in cui appunto ci fu Sgt. Pepper, Disraeli Gears, The Cream e altri, forse anche l'esordio di Hendrix, datato 1967, sì, insomma un bell'anno. E questo pezzo sempre con Peter Green alla chitarra, Out of Reach. Hurt me so bad. My mind's been broken. My heart feels so sad. The evil people. Well, I can't even walk out of my door. And I just can't take no more. I'm out of reach, can't take no more. pezzo è tratto da un album che si chiama Bare Wires del 1968 e vede al vede in formazione due dei membri di uno storico gruppo, i Colosseum, un gruppo di rock jazz che avrebbe veramente fatto storia. Dick Smith, che abbiamo ascoltato prima con Alexis Corner, tenor sassofonista, e John Hyman alla batteria, grande caposcuola, in più con il nuovo chitarrista Mick Taylor, che prende il posto di Peter Green. E in particolare mandiamo solo uno stralcio della lunga suite, perché sarebbero 29 minuti 23 minuti di suite. Ascoltiamo uno stralcio di 2 minuti, tanto per capire l'atmosfera jazz che già andava maturando. Questi erano 2 minuti estratti dalla lunga suite di 23 minuti, appunto estratta da Bare Wires del 68. E il prossimo pezzo? Il prossimo pezzo è tratto da un album di svolta, anche questo, The Turning Point. Il nome è una garanzia, etichetta Polydor, anno 1969. Registrato dal vivo a Fillmore Est, e qui abbiamo l'inserimento di elementi nuovi, John Mark e Johnny Almond, famosissimi anche per gli album che fecero proprio con Mark Almond. John Mark alla chitarra acustica e Johnny Almond al sax tenore e sax alto e flauto, e quindi una ventata di novità con l'inserimento soprattutto di Johnny Almond. E il primo brano che mandiamo, che però andremo a sfumare, è The Laws Must Change. to say you're right and say you're wrong. It seems to be the fashion to say you're right and say you're wrong. You've got to see both sides. You find yourself in jail for long. They only do no good. Screaming at policemen, but they are only do no good. Try and take the time to figure out how the issue got that beat. questa era appunto California, e con un giro di basso molto contrabbassoso, per modo di dire, molto chiuso e circolare. Nel prossimo pezzo ascolteremo appunto un altro bassista, mentre prima era Steve Thompson, Larry Taylor, che deve avere appunto ereditato lo stile, di Thompson. Lo amplifica ancora di più come cadenza. L'album è Back to the Roots del 71, è un album di grande fusione di stili, oltre che di, per la presenza di nomi come Eric Clapton e Mick Taylor e sempre Johnny Hammond ai sassofoni. E il brano che ascoltiamo è, il primo brano che ascoltiamo è Blue Fox. Ascoltato Blue Fox con un inserto di violino di Don Sugar Cane Harris. E il colui che sarebbe poi stato, avrebbe collaborato con un gruppo di nome Jefferson Airplane, la West Coast americana. Già qui era molto anziano Don Sugar Cane Harris. Io penso che avesse già più di 70 anni. Ovviamente nel prossimo pezzo è un estratto che testimonia un assolo di Clapton. Il pezzo è Goodbye December. Come stile ovviamente qualcosa che poi riprenderà e svilupperà nei Cream. Andiamo a sentirci proprio questo estratto di un minuto da Goodbye December. L'ultimo estratto è preso da un album del 72 che si chiama proprio Jazz Blues Fusion. Penso sia il là poi a diciamo una derivazione un poco più jazz di John Mayall e dei suoi appunto collaboratori. Sì, anche John Mayall poi alla fine dopo tanti anni si avvicina molto di più al jazz. Una delle note che forse gli fece la critica, che si facesse forte di molti musicisti giovani e quindi si avvalesse delle loro capacità per mettersi in mostra, mentre Alexis Cole era più autoritario, più una guida, ma sicuramente le composizioni di Mayall sono grandi composizioni, quindi è una piccola colpa per il merito delle sue composizioni. E adesso da Jazz Blues Fusion, come brano conclusivo, ascoltiamo Change Your Ways. Ok, allora prima di mandare Change Your Ways vi lasciamo, ovviamente questo era il prologo di una rassegna, per così dire, che appunto il dottor Celebre ha tenuto al Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria, e con la quale ha voluto fare una panoramica della musica inglese, ma non jazz, dagli anni 60 e 75. E va bene, vi lasciamo con Change Your Ways, Change Your Ways. Alla prossima!